Anton Luca, sono, ho detto ci sentiamo dopo. Vabbè, non c'è problema. Questo è quel microfono nero, in quell'apparato che sei tu. Beh, ci sentiamo dopo. Cosa devo fare? Cosa? Non ho capito, cosa devo fare? Ho detto, questo è il microfono, quello nero. Ah, c'è bella. Scappa, dai, dopo. Sì, a poi qua non c'è nessun problema. Ora, attenzione 10, capo. Cos'è tu, casino? Hai finito di fare il casino? Ah, però beh, hai finito? Di che ti faccio scendere di fuori, amico? Hai capito? O ti faccio squillare? No, lui è che sono bucato, vero? Non hai fatto questo. Chiave, chiave. Chiave, chiave. Anche lui dice di andare. Non ti penso di no. Non lo so, ancora. Chiave, chiave. Ma cosa si tratta di essere più forti oggi? Ah, sto te ne scendo, sono amplificazioni. Bubu. È una cannonata rispetto agli altri giorni. Bubu. Vabbè, a dopo. Ciao ciao. Capa. Ehi, che lui fa un'altra di spendere, capa. Ehi. Ma quella foto che mi ha mandato prima, Ehi. Bello, bello, bello, bello. L'ho avuto anch'io. L'ho avuto anch'io. Ho scoperto anche che aveva il compressore, quella radio lì. Sì, molto bello, Anzu, molto molto bello. L'ho avuto anch'io, ne ho avuto due veramente. La prima serie l'ho avuto sempre. E veramente, quando attaccavo il compressore, allucinante. Certo si sta pompando, ma fatene scenda. Luca, ci sei? Attento Luca, ci sei, ascolto. Oh, yeah. mi sono preso. Sei preso? Qualche maledizione. Ma non ci credo a questa cosa qua, non è superstiziosa. No, non è per quello, anche non è un cazzo di luci. Dipende cosa hai mangiato, poi ti risposto, e ti ho fatto male. Voglio mangiare una pizza, ma ti ho mangiato. Cosa hai mangiato? Una pizza che ho mangiato, non sei tomato, non sei tomato. Sei troppo ribombato a tu. Aspetta, ecco qua, Tony, mi senti bene adesso? Mi sono seduto. Ma sei molto rimbombante, capito? È un bel amplificazione, certo. Infatti sei stato un po' forte, si sente. Va bene così. Sì, ciao, ragazzi, c'è il processore acceso. Io mi sono mangiato un po' di mandorle sbucciate. Buone. È buono, è buono. Oh, via, non mi vengo male, via. Beh, non ti ho preso niente. Mi sono appena svegliato, ero addormentato sia io che mio figlio. Certo. Avrei mangiato qualcosa che il risposto del tuo stomaco non lo accettava. Sicuramente. Ho mandato la pizza, ho mangiato. Questa pizza l'hai comprata? No, non l'ho presa da Bruno. Non c'è stata qualche cosa che ti ha fatto male, oh. Sì, sicuramente. Non ero troppo, stamattina ho lavorato, era al verde. Va bene. Però, ma tutti a me, bisogna stare attenti pure quello che si mangia, Attenti, sì. Oppure ho mangiato il corpo, ho mangiato la pizza. Ma il tuo cane non vuoi lasciare nessuno? Scusa adesso, io mi sono addormentato, poco fa, tutto... Non lo so proprio, la verità ti dico. Io devo portare il sottovisore e farlo guardare. E cosa fa? Quando lo accendi, ci metto perfetto. Poi dopo 5-6 secondi scompare l'immagine e metto il tuo buio e senti solo la voce. Sì, una domanda non sarà. No, qualche lente sarà partito. Beh, può essere. Sì, guarda. Secondo come quando ti chiedono il convegno grande, quindi so puro, a pregi non ha più visto, quando te lo compare di nuovo. Ma io questo l'ho pagato 200 euro perché ho 40 pollici. Ed è tutto a lente. E mi ha detto sulle 70 euro, mi hanno detto, per aggiustarlo. Cioè, così ancora potrebbe andare. Quanto tempo c'ha? Penso che l'ho comprato quando c'era Russia. Russia, quanto anni manca? No, un anno. No, di più. Tra 4-5 anni. Di più, sicuro. E io sto stato qui. Perché la mia mi si è fermato. Ne aveva uno, ma non è... Anche un bucciato 32 pollici, era 40 pollici, come quello. Anche un biglietto da che butto 30 pollici, 32 pollici, ho portato neanche lì a... E ti ha guardato, va, ma no. Vabbè, pollici ha fatto di 10 anni, Io quello di cucina invece l'ho preso a parete, quello è 65 pollici. Io sono già a corsa. No, ce l'avevo un anno e mezzo, non di più. Certo. No, è anche, neanche un gatto, non so bucciato, un radio del drama. Però questo 32 pollici che si vuole chiamare cannonata, no? Kindo invece era tutto il cambiare Kindo, se mi ha più da anche biliardo, va, un cazzino. Infatti, stavo guardando qualche TV grande per 40 pollici, ma costa troppo. Quindi adesso mi sa che faccio riparare. Se c'è Luca, glielo dico a Luca, lo taglio a Luca, ma voi penso che mi ti gatto con tutte le cose che sto facendo, che faccia il dai. No. Adesso vediamo, più là, quando si chiamano proprio le acque, ti compreranno i caffè d'uno. altro il signor Carimani, per quanto ne accendo io, quando sono in bagno le vengono, mamma mia! Vedi qualcosa per il suo nocco? Ruglia, mamma mia, come era vero? Ma c'è andato di corpo? Di tutto! Scusa tu, prova a fatti non so nuovo. Ah, quel limone e zucchero. E quella che ci ha tagliato un bizzino, c'è meglio che tardi. Quello è per i vomiti. Quando proprio dice, prendete me ne ha condito questo, perché era così era. Forse c'era qualcosa da fare male con la pizza. Sono mia moglie, perché cazzo me ne ha. Noi ci dirò, Gabriele, cosa c'è? Sei tranquillo che papà non lo so, la ricordo a giocare nella palestra. Volevo uscire ma non la giocare, dici andare da Tecnomatis, che si chiama così anziché Bricome. Come prendo un flessibile da 70 a 80 cm lungo. Che cosa? Perché io ho fatto un bypass qua, capito? Siccome nel bidino non ci arrivava l'acqua fredda perché il tubo era marcio interno, quindi ho messo il tappo cieco e ho fatto un bypass dal lavabo, però l'ho fatto col multistrato e non mi piace. Adesso è perfetto tutto quanto a posto, però mettendo, sto pensando un flessibile, riesco a nasconderlo meglio. Ah, facendo un indietro nuovo. E mi ha detto di rompere tutto il bagno, no. L'ho fatto esternamente, l'ho chiesto al padrone, sì, fallo così, mi ha detto. Anziché rompere tutto, perché se mattoni non li trovi più. Una volta che sono fatto da un po' di anni, se si mattoni non li trovi più. E adesso è fatto un placcaggio nuovo, no. Infatti ho rotto tutti i tubi, ho rotto. Sono molto piccolo, anche ma se hai capito vale uscire dalla canna. Vediamo se c'è Natalino, ci sei in ascolto. E te? Indovina cosa ho messo come niente a far tra poco. Allora, il cazzo fatto con le mandorle. E già lo sai come si fa, che ci va l'olio, zucchero e poi va sciolto, caramellato e poi c'ho le mandorle, mamma mia tanto è buono. No, non è che ne mangi di quelle cose? Io sì. Vuol dire su, cosa c'è Gabriele? Ma che bicchiere si è citato? Ce la sentiamo dopo, va. Ok, ciao. Guarda a vedere questa radio. Se ti piace, cambio.